100.000 baci. Uno, nessuno, 100.000 di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Siamo qui cari ascoltatori per una nuova puntata di Uno Nessuno 100.000 fino alle 11 con voi per chiudere questa settimana insieme a voi. Allora ci siamo 800240024 per intervenire in diretta oppure 349-238-6666, i vostri WhatsApp, i vostri SMS. Saluto tutti da... vabbè, c'è Carmelo Lauricella in regia purtroppo. Ecco, figurarsi, a fianco a te c'è Laura Faggin che saluto, come la redazione Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Signori, e arriva anche Mario Calabresi che ha già una lamentela. La trasmissione non è ancora iniziata e già si lamenta. Buongiorno, Mario, buongiorno a tutti. Facevo notare che siccome il patto era che io venivo il venerdì in cambio di un caffè nella tazzina di vetro, ho capito il tema del lockdown e quindi per un lungo periodo di tempo. Ma adesso che i bar hanno riaperto anche in modalità, potresti mandarmi questo benedetto caffè? Cioè, simbolicamente, cioè tu lo vorresti a casa, a casa, ecco, così con un delivery di caffè. ragazzi, vabbè prenderemo in esame questa richiesta, la sottoporremo alla responsabile del programma Alessandra Scaglione. Tu a Vestaglione glielo mandi il caffè a casa. Lascia stare che oggi Vestaglione ha già un dramma, ha detto si è rotta la caldaia, spero che non arrivi il tecnico tra le 9:30 e le 11:00, e io ho risposto io spero di sì, sarebbe una gran diretta con il tecnico esatto. della caldaia di Leonardo Manera, speriamo, anzi tecnico della caldaia di Manera, se ci senti vai tra presentati le 9:30 e le 11:00 per favore tradizione. Per favore, sarebbe stupendo. Allora ci siamo cari ascoltatori. Ale, Carmelo, vai. Enthusiasm. Farabutto. About the future. Vabbè, c'hai capito Mario, il nostro Carmelo Lauricella ha montato il solito enthusiasm con l'attacco di tosse che ieri ha preso, ha colto il Presidente del Consiglio. Guarda che qua siamo malandrini, Cioè, prima o poi... Molto. Ce le faranno pagare tutte queste, insomma, ce le faranno pagare tutte. Allora, ci sono tanti temi da affrontare. Per una volta, visto che la politica l'abbiamo tenuta sempre sotto traccia, però Mario, io ti vorrei chiedere proprio qualcosa riguardo a quello che è successo ieri, la bagarre in Senato. Tra l'altro hanno fatto notare molti che dalle foto che a un certo punto con la bagarre, altro che assembramento alla Camera, sembravano uno sopra l'altro. Altro praticamente, vabbè, non ha mantenuto le distanze sociali. Happy hour e aperitivi. Esatto. Però tutto è nato dall'intervento di un deputato del Movimento 5 Stelle, il vice capogruppo Ricciardi, che ha criticato la Lombardia e la sanità lombarda. Sentiamo una parte, vai. L'ospedale per cui hanno speso 21 milioni per 25 pazienti. Ecco come sono stati spesi i soldi delle tasse e dei cittadini deputato lombardi. Ferrari. E non li ha spesi deputato Ferrari. Li ha spesi la Lombardia. Dovete tornare ai vostri posti. Fico, presidente, ci ha provato. Poi sospesa la seduta. Allora Mario, adesso ti chiedo cosa ne pensi. Io dico solo una cosa, poi dopo se no dicono sempre critichi il Movimento 5 Stelle. Però in questo caso io non ho capito chi dice ma così si manca rispetto ai morti. Io credo che fare delle domande, poi legittime o meno, sia invece una forma di rispetto verso le persone. Guarda, che sono cadute, ti devo dire, si potrà questo, fare però. Una critica, no? Si potrà fare delle domande. No, però bisogna distinguere. Cominciare a fare delle critiche, ma secondo me è anche doveroso. Ti faccio un esempio: lui ha tirato in mezzo il fatto che Giorgetti, proprio cos'era? Era al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Aveva detto estate, chi va più dai medici di base. Famiglia non aveva più senso, eccetera, eccetera. Abbiamo visto purtroppo che quel modello lombardo, da quel punto di vista, non è stato efficace per rispondere a una crisi di questo tipo. In Veneto, dove c'è più presenza sul territorio della medicina, anche perché il Veneto è fatto diverso, hanno risposto meglio, i controlli sono stati più efficaci e più vicini al cittadino. Quindi c'è un problema, c'è stato un problema nel modello lombardo. Questo non leva tutto quello che è di eccellenza, perché se poi tutta Italia, certo, se ha un problema cardiaco, un tumore o molte altre patologie, viene in Lombardia, un motivo ci sarà. Detto questo, noi dobbiamo cercare di capire che cosa si è sbagliato per provare a immaginare anche delle correzioni. Il punto è, ed è sacrosanto dirlo, come è sacrosanto dirlo che ci sono stati un sacco di errori in partenza, li abbiamo visti e ancora oggi speriamo che davvero ci pensi la natura, cioè che il virus stia perdendo forza. Non è che abbiamo delle evidenze ancora, però tutto quel pacchetto lì, i tamponi, i tracciamenti eccetera eccetera, è molto scarso. Io però trovo una cosa, il deputato 5 Stelle toscano Ricciardi, Luciferino, sì, hai visto? Il sì, eccetera, sì, eccetera, adesso hanno detto non la ha fatto barba delle domande. Luciferino. Perdonami, ma non ha fatto delle domande, ha usato dei toni provocatori e l'ha buttata in politica, cioè voi criticate Conte e noi vi diciamo che avete buttato i soldi. Vabbè, siamo in Parlamento, allora, in ogni tanto succedono queste cose. Sì. Sì, diciamo che in Parlamento però succede un po'. Io l'unica cosa che mi spiace è quando si tirano in ballo i morti da entrambe le parti. Cioè non è che criticare un sistema vuol dire mancare rispetto verso chi è morto. Cioè non ho capito l'equazione. Su quello sono d'accordo con te. Quando uno vuol chiudere la bocca a un altro gli dice ma ci sono i morti. Ho capito. Però tu mi dici la politica è così. Però uno ha sempre la speranza che la politica possa essere anche che uno fa quell'intervento mettendo in fila delle cose e chiedendo conto, sì, e dicendo cosa possiamo fare. Ma quando quella lì erano due dita negli occhi, era una provocazione evidente verso la Lega e quindi la Lega poi risponde facendo... Certo. Non hai visto niente di costruttivo in quell'intervento, Dopodiché, sulla questione dell'ospedale, adesso la procura indaga il famoso ospedale aperto alla fiera, è praticamente inutilizzato, anche qui ci sarebbe da dire qualcosa, perché se l'OMS 3 anni fa dice attrezzatevi e un governatore avesse speso dei soldi dei contribuenti per comprare 2 milioni di mascherine, 3 milioni di mascherine e poi non fosse arrivata la pandemia, 20-30 milioni, ecco, io lo dico chiaramente, qualche quotidiano, magari il Fatto Quotidiano in prima linea, avrebbe fatto delle belle inchieste sui soldi dei contribuenti buttati via. E allora dobbiamo metterci d'accordo però, magari l'ospedale adesso non serve, magari servirà, magari è stata una scelta previdente, magari non ci sarà più il virus, speriamo. E lo so, però se poi dopo veniva il virus ci dicevano non eravamo pronti, allora mettiamoci d'accordo, no, su questo. L'ospedale, mi viene da dirti, meno male che non è stato usato, perché quell'ospedale era sostanzialmente il salvagente ultimo di una situazione che era totalmente in emergenza. Cioè se tutti gli ospedali della Lombardia avessero... fossero esplosi, allora quello lì era l'ultima ratio. E come, cioè, forse l'hanno costruito, mi viene da dire, troppo tardi, andava fatto un pochino prima, con più tempismo, però io meno male che l'hanno fatto. L'unica cosa per cui tu puoi accusare è se tu scoprissi che c'era un parere che diceva no, la curva sta scendendo e dice uno l'ha fatto perché aveva un interesse personale eccetera eccetera, questo, ma dal punto di vista dire è stato fatto un ospedale di troppo, ma che discorso è? E allora ma è costato, no, ma certo, questi soldi, ma che cosa vuol dire? Dai, è una provocazione. Sì, a me non piace appunto l'idea che si dica siccome è vuoto vuol dire che sono stati buttati via dei soldi. Ho capito, no, però poi se non c'è si dice non eravate pronti. Esatto. Mettiamoci questo d'accordo. È il motivo per cui in Italia non si fa manutenzione e prevenzione, perché poi si uno dice ma io ho speso tutti i soldi a pulire tutti i tombini, le rogge, i fiumi in caso di alluvione. Non arriva l'alluvione e dice guarda quanti soldi ha speso per una roba inutile. Poi arriva l'alluvione, non l'hai fatto e il sindaco va sotto processo. Allora, il punto è che la prevenzione e gli interventi appunto di prevenzione, si chiamano così, sono da fare, hanno dei costi. Sono da fare nell'ipotesi. Sì, sì, esatto, hanno dei costi. Poi ci sono tanti altri temi sui quali ti vorrò stuzzicare, a cominciare dalla Movida, ma prima voglio salutare un ospite, caro Mario Calabresi, perché purtroppo quello che registra la Guardia di Finanza, quello che registra l'inquirente, è un incremento delle richieste di usura, delle pretese di usura, il lavoro degli usurai, che purtroppo sono gli usurai, quelli della porta accanto, quelli che vanno ora nelle attività commerciali in difficoltà, le conoscono e chiedono se vogliono una mano. Voglio salutare il colonnello Pierluca Cassano della Guardia di Finanza, buongiorno e grazie di essere qui, comandante del nucleo Polizia Economico Finanziaria a Bari. Buongiorno colonnello. Buongiorno a voi, buongiorno dottor Calabrese. Buongiorno, allora, colonnello. Noi la ringraziamo molto perché intanto per il lavoro che fate, perché voi stanate proprio su strada, sui marciapiedi, nelle attività commerciali, questi strozzini, vogliamo definirli in maniera così, molto molto cruda e bieca. Ovviamente come capite che è aumentata questa attività criminale? Allora, guardi, innanzitutto vorrei ribadire che l'usura non l'ha inventata, diciamo, questo periodo emergenziale sanitario. L'usura è sempre esistita, però come giustamente ha fatto notare, in questo momento lo stato di bisogno, che era la fattispecie, diciamo, del vecchio reato di usura, che adesso è un aggravante del nuovo articolo 644, alimenta, catalizza questo bisogno di contante. Consideri che il lockdown, una delle conseguenze del lockdown è stato quello di il piccolo parrucchiere, il piccolo esercente, il professionista ha visto venir meno il cash flow, cioè l'incasso di soldi, però altrettanto non sono diminuite le spese. Faccio riferimento alle spese per la famiglia, per il wifi, molta gente ha dovuto comprare il computer per la didattica a distanza e quindi la richiesta, la domanda di denaro liquido è salita. L'offerta di denaro liquido talvolta non è così immediata e quindi chi... Cioè dalle banche, conosce, dai circuiti sì, legali. Ma senza demonizzare nessuno, però molta gente, anche da un punto di vista psicologico, ha difficoltà a dire io sono in difficoltà. Nel senso che andare in banca e dire sono in difficoltà, poi la burocrazia è quella che è, poi la reputazione, perché magari il professionista o il negoziante che ha una vita, soprattutto al sud, dove c'è questa necessità comunque di mantenere una certa parvenza di serenità, sono tutti ingredienti che costituiscono l'humus dell'usuraio di quartiere, dell'usuraio di prossimità, come l'ha chiamato lei, dello strozzino, perché lo strozzino conosce benissimo le difficoltà della famiglia, del piccolo imprenditore, e quindi offre, quasi si offre come approfitta di quello stato di bisogno, che è deplorevole questo approfittamento, e quindi offre questa disponibilità. È chiaro che chi si trova in difficoltà ottiene meglio e prima, o meglio si illude di ottenere meglio, ma ottiene sicuramente prima i liquidi di cui ha bisogno. Non pensiamo a numeri esorbitanti, parliamo anche dei 5.000, dei 4.000 euro che hanno. Anche a questo mi ha colpito, cioè il commerciante, io sono entrato da un commerciante ieri, mi ha detto guarda mi è arrivata la bolletta da 800 euro per i due mesi in cui ero chiuso, e ovviamente ha chiamato dicendo, protestando, dice ma noi andiamo sulle previsioni, no, sulle stime di consumo, quindi lei la deve pagare, al limite le diamo il rimborso. E uno che cosa fa? Magari per 1.000 euro ha bisogno di rivolgersi a qualcuno che glieli dà, è solo che questo qualcuno poi... Se posso chiedere una cosa, che tipo di tasso di interesse hanno questi usurai su queste piccole cifre? Ma guardi, dottore, e a quanto tempo vanno restituiti i soldi? Allora, dipende dai casi. Noi abbiamo registrato restituzioni del 20% a settimana, che chiaramente moltiplicato su base annua fa una cifra importante. Poi tenga conto che indipendentemente dal lockdown, tanta gente qui nel sud, io parlo per Bari, Bari è la provincia di Bath dove diciamo, è competente il mio reparto a questo tipo di attività, si rivolge al credito illecito anche per necessità reputazionali, la ludopatia, molta gente gioca e quindi diciamo l'usuraio approfitta di una situazione di difficoltà fisica e soprattutto psicologica. E quindi chiaramente a fronte di un interesse che viene percepito non importante, cioè ti presto 1000 euro, me ne dai tra una settimana 1050 o 1100, è quello l'aggancio. Dopodiché si entra in una turbine psicologica, lui si fa fatica a uscire, perché chiaramente si fa fatica a dire mi sono rivolto alla persona per bene, poi fa fatica a dire mi sono rivolto all'usuraio per avere i soldi, ed è qui che si annida, diciamo, l'effetto moltiplicatore dell'usuraio di quartiere. Sì. Il problema, mi sembra di capire, colonnello, che non c'è neanche il bisogno di andarli a cercare, cioè sono loro che vengono magari da finti clienti. È un buon equilibrio. Sicuramente noi abbiamo registrato persone legate o direttamente o immediatamente alle grosse famiglie criminali qui della zona, che si sono offerte, come lo stesso sindaco De Caro, devo dare atto, ha denunciato, dice se ti serve qualcosa noi siamo qui, non preoccuparti. E quindi chiaramente il piccolo esercente che ha riaperto o il bar che ha riaperto, però nel frattempo ha dovuto pagare le forniture, cioè lei pensa ai negozi di abbigliamento. Il 7 marzo tutti i negozi di abbigliamento avevano già pronta la, diciamo, vetrina primavera-estate. I negozi di abbigliamento, i capi di abbigliamento si pagano in anticipo. Non è che si può dire te lo pago, perché l'economia si è fermata improvvisamente e quindi la criminalità organizzata, ma anche la criminalità d'occasione, perché diciamo che è immediato dire che io magari intercetto il business, quindi ho disponibilità liquide, ti presto dei soldi, poi chiaramente tu mi devi remunerare, cioè me lo devi quasi perché io sono stato generoso, capisce? E a parte l'aspetto criminale, c'è proprio un assoggettamento psicologico e uno sfruttamento psicologico da parte di questi soldi delle persone che sono in difficoltà. Sì. È abbastanza terribile. Infatti lei dice molti hanno poi anche vergogna, molte persone oneste, commercianti, hanno vergogna poi a dire sì, a denunciare, anche se si può uscire dall'usura. Questo è il messaggio fondamentale. Ma guardi, assolutamente. Noi disponiamo, la Guardia di Finanza negli ultimi tempi ha investito molto in information technology. Abbiamo degli applicativi, degli incroci di banche dati che ci fanno, e penso innanzitutto al preciso anticipaggio, che ci fanno notare, ci fanno emergere delle evidenze di persone sotto strozzo, è evidente. Quindi noi in qualche modo arriviamo a intercettare i fenomeni usurari. Però è chiaro che se la gente denuncia, premesso che è un reato perseguito d'ufficio, quindi non è necessaria la denuncia, però per questi piccoli casi la denuncia serve a catalizzare il processo di lavoro di reazione a questo crimine, a questa piaga sociale, e serve anche per poter dotare il procedimento penale che ne scaturisce di una valenza probatoria più cospicua, più importante, cioè serve ad arrivare a condanne, altrimenti si rischia che si fa un'azione di repressione superficiale, o meglio, i cui effetti sono superficiali, perché poi non si arriva a arresti, aggressioni patrimoniali, sequestri e confini. Mario, hai ancora una domanda? Poi liberiamo il colonnello Cassano. No, volevo capire una cosa. Su queste piccole cifre, se è appunto, diciamo, l'usuraio di quartiere, se uno non paga, cosa succede? Ecco, diciamo, se non paga, è chiaro che c'è, come nelle aziende ordinarie, c'è la cessione del credito. Quindi il piccolo usuraio, che comunque il piccolo usuraio, diciamo, tendenzialmente onesto, è chiaro che comunque deve rientrare nella somma investita e cede il credito all'impresa criminale vera e propria. Chiaramente cede il credito ad un prezzo conveniente, perché poi l'impresa criminale, tutti questi crediti non è, diciamo, che non sono stati incassati, dispone di mezzi diversi di persuasione o di coercizione per poi arrivare, diciamo, ad attività estorsive o di minacce fisiche, diciamo. Ecco. Allora, sì, è una piaga che davvero, purtroppo, tra l'altro nei prossimi mesi... Mi scusi dottore, poi chiaramente c'è anche lo screditamento, no? Perché dire ho prestato dei soldi, lui me li ha ridati, per uno che ha un'attività economica, consideri che massimo, anche il danno reputazionale è una violenza, Eh sì. Noi comandante, grazie la ringraziamo. Pierluca Cassano, ripeto, è comandante del nucleo Polizia Economica Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari. Allora, caro Mario, si sono scatenati sull'ospedale, come era prevedibile, presumibile. Allora, sentiamo, molti che criticano dicono, esatto, alcuni criticano dicendo c'era l'ospedale di Legnano già pronto ed è per questo che si è reso inutile e si rende inutile la costruzione di questo ospedale. Altri invece, evidentemente sostenitori, dicono, sottolineate il fatto che non sono soldi dei contribuenti ma tutte donazioni private e quindi questo fa una differenza. C'è anche chi ci critica o chi critica il fatto, lo fa la mia amica Saretta da Roma mi segnala, ma quello è un ospedale solo di terapia intensiva, quindi è scollegato dagli altri reparti, cioè è stato fatto un ospedale solo specificamente come terapia intensiva per il Covid, per l'emergenza. Diciamo che come vedi, comunque giustamente la gente si interroga sull'utilità o meno di questo ospedale. Vedremo che succederà. Caro Mario, la Movida, c'è questo altro grande tema. Ti faccio ascoltare un paio di interventi, credo, del sindaco di Torino, Appendino. Vai, e poi anche c'è Conte, viaggiamo in Italia, ma sentiamo l'Appendino prima. È chiaro che non vorremmo ritrovarci nella situazione di dover chiudere i locali e chiudere spazi di libertà. Ma soprattutto ho chiesto al prefetto di chiudere quei locali che sono lontanissimi da ogni rispetto delle regole. Non è ancora questo il tempo dei party, delle movide. Beh, poi Conte c'ha questa passione per i party, solo lui utilizza questa espressione, i party, parties sarebbe, vabbè. Ascolta, tu che ne pensi, caro Mario? Beh, penso questo, allora, due cose, da un certo punto di vista io tutti gli assembramenti, i gruppi senza mascherina li trovo una provocazione, se tu ci pensi. Ieri è stato un giorno in cui si è detto che c'è il rischio di una seconda ondata in tutta Europa. La Svezia, che aveva usato un altro metodo, è diventato il paese con più morti per numero in proporzione al numero degli abitanti al mondo, e quindi la Svezia, che sembrava quelli che facevano giusto. È stato un giorno con 1000 morti in Brasile. Negli Stati Uniti arriviamo a 100.000 morti. Cioè, il mondo in questo momento è ancora in sofferenza. Noi sembra che di colpo ci siamo, anzi non di colpo, dopo il via libera, perché il signore che parla dei party, cioè il nostro Presidente del Consiglio, sabato sera sostanzialmente ha detto liberi tutti, fa un'attenzione ma liberi tutti. Gli italiani non aspettavano altro che sentirsi dire liberi tutti. I giovani finalmente soprattutto, siamo i ventenni. E quindi io credo che... Io mi auguro che il virus stia calando, che scompaia e che non ritorni più. C'è il terrore che torni in autunno. Il problema è che non abbiamo ancora queste evidenze. E quindi questo fatto che adesso, dopo tutto questo tempo, è come se fosse finita, io lo trovo pericoloso e questo preoccupante. Questo è pericoloso. Questo, io però, è strano, scusa, secondo me, che però il Presidente del Consiglio dica che richiudiamo tutto. Sulla movida ai giovani. Non è che... Però dobbiamo anche ricordarci una cosa. I tre luoghi del contagio e dei morti, poi hai visto che sono le nuove stime, c'è oggi il Corriere della Sera, si dice che i morti, per esempio, pare che non siano 32.000, ma siano 19.000 in più, quindi intorno a 50.000, lo scostamento dei morti tra l'anno scorso e quest'anno, sì. Quindi sarebbero anche molti di più. Ma i morti e i contagiati non ci sono stati nei bar, negli aperitivi, negli assembramenti, o colpa dei cittadini che correvano senza mascherina, ti ricordi? A un certo punto i colpevoli erano quelli che facevano, che andavano a fare la corsetta. Cioè sono avere lasciato i malati nelle case, non avere messo in sicurezza subito gli ospedali e avere lasciato o portato i malati, non aver fatto i tamponi, nelle RSA. Case di riposo, case private e ospedali. Allora, adesso dire se la colpa è di quelli lì, cioè, io lo trovo irritante, ma mi sembra anche una cosa... noi dobbiamo tutelare la sicurezza nei luoghi in cui ci sono i contagi e adesso pensare che sia tutto colpa di quello fastidio. Sì, ha dato fastidio e dà fastidio l'idea di dire attenzione, se sgarrate richiudiamo tutto. Ma se uno sgarra, dagli la multa. Ma perché devi, cioè, questa idea di considerare tutta un'intera nazione come dei adesso lo dico forte, dei cani barboncini al guinzaglio, per cui ti do un po' di guinzaglio, hai sbagliato, adesso ti tolgo il guinzaglio. Ma scusate, ma adesso questo poi alimenta le tensioni tra cittadini, perché se si deve chiudere tutto perché una esigua minoranza viola le regole, dopo il cittadino si arrabbia con quell'esigua minoranza, il punto, no? Però è questo. Gli punta il dito, si deve chiudere, multateli, se multateli. I sì, sì, appunto, ma poi si deve chiudere se ripartono i contagi, non se siccome c'è la movida, certo, voglio dire. Però io ritorno indietro, nella conferenza stampa di sabato sera il Presidente del Consiglio ha dato l'idea, non ha detto dovete portare la mascherina, potete anche portarla in mano, non metterla, poi se entrate in un posto la mettete, che se c'è una cosa che ti dicono che se tu continui a metterla, no, a togliere, ci metti le mani sopra, a un certo punto allora non metterla proprio, buttala via, che te serve, sì, come dicono a Roma. Comunque, caro Mario, allora, oggi ovviamente c'è la newsletter di Mario Calabresi, mariocalabresi.it, .com, non hai ancora fatto .org, questo è una grave pecca, no. Quando farai .org io ti manderò un caffè in delivery. E va bene. Aspetta, non mi provocare. Cioè, è capace di farlo pur di avere il caffè, porca miseria. Tu vuoi semplicemente testare i mezzi di Radio 24, poi non ti interessa quel caffè, vuoi solo così, lo fai a sfregio, ecco, diciamo la verità. Vabbè. Dai, ti ringrazio molto, ovviamente. Buon fine settimana a tutti. Buon fine settimana anche a te. Dobbiamo andare un attimo in pubblicità, poi spero che sia arrivato il tecnico della caldaia a casa di Vestagliona Maniera, perché sarebbe una diretta fantastica. Vediamo tra un attimo. State ascoltando un programma offerto da cerchi un software per analizzare, simulare e pianificare? Vai su board.com. Uno, nessuno, 100 Milan. We go down to the indie disco every Thursday. Buongiorno Milan, allora io non voto né centrodestra né centrosinistra, l'ultima volta che ho votato è stato nell'87 e ho votato per Cicciolino, ma a me risulta che l'ospedale di Milano non sono stati spesi con i soldi della regione ma con i contributi dei privati, quindi di quali tasse sta parlando l'onorevole? Allora le provocazioni hanno risposto peggio quelli della Lega. Ah, per favore, sempre colpa il Movimento 5 Stelle, ma va. Scusa Milan, ma dei soldi usati per fare l'ospedale alla Fiera, no? 10 milioni non li avevo mica dati il Berlusca. Va bene, la lascio luppa di salvataggio, ma non fatta d'oro, grazie. Vabbè, allora l'abbiamo detto, comunque questa cosa forse un attimino in ritardo dei fondi privati. Allora, attenzione, Leonardo? Sì, buongiorno. Leo. Sono qui. Tutto a posto? Ci sono. Non sento rumori in sottofondo, sferragliare, no, di chiavi inglesi. Non è ancora arrivato il tecnico della caldaia, ma stamattina la caldaia ha ricominciato a funzionare e adesso loro sono indeciso se telefonare e dire di non venire. Però poi io temo, no, che si blocchi nuovamente. No, adesso almeno gli paghi l'uscita. Allora, è venuto sulla caldaia, è comparsa la scritta errore 104, circolazione insufficiente. Allora aspetta, però, perché ieri Lorenzo Nespoli, il nostro tuttofare, ci aveva dato un suggerimento che vorrei che mi potesse riscrivere. Non ho fatto in tempo ieri a leggere questo suggerimento di Lorenzo Nespoli perché la trasmissione poi è finita. Lorenzo, cioè, puoi rispiegare Leonardo velocemente il problema, che Lorenzo te lo risolve? Allora, è comparsa la scritta sulla caldaia, errore numero 104, circolazione insufficiente. Io credo che sia un problema di pressione. Bassa pressione. Che sia un po' abbassata, ecco. Sì. Però Lorenzo non ieri aveva troppo, dato... No, infatti... No, perché dopo esce tutta l'acqua. Non fare esplodere niente, Hai fatto bene a chiamare volta, un tecnico. L'ho già fatto una volta. Cioè, però adesso ha ricominciato tutto a funzionare e allora il dilemma è: lo faccio venire comunque, anche se magari non ce n'è bisogno, oppure rischio, poi mi si blocca di nuovo, sì, lo devo richiamare. Loro pensano che io sia uno che fa delle chiamate inutili e poi e poi non vengono più, quindi è un bel dilemma. No. Fallo venire, perché la buona legge di Murphy sulle caldaie dice che non funzionano quando il tecnico se n'è andato via e funzionano quando arriva, quindi adesso arriverà, io confido che succeda durante la diretta, se succede dai, facciamo una bella intervista al tecnico della caldaia, è stupendo, cioè, ti viene proprio l'ospite in casa, è meraviglioso. Allora, nell'attesa, cari ascoltatori, voglio tornare su una vicenda di cui ci eravamo già occupati, forse anche Leonardo che ha la memoria di Dori, il pesciolino, se lo ricorderà, e cioè la vicenda di Prato. Forse ricorderete di una donna di 32 anni che dava ripetizioni private a un ragazzo che all'epoca aveva meno di 14 anni e a un certo punto è rimasta incinta questa donna e quindi ha avuto un figlio e il figlio è proprio di questo ragazzo. Ora c'è un processo. Io saluto Mattia Alfano, che è l'avvocato che difende questa donna di 32 anni. Buongiorno avvocato Alfano. Buongiorno dottor Milan. E grazie, perché il PM, siamo in fase di richiesta di pena, ha chiesto 7 anni di carcere per lei e 2 per il marito per falsa testimonianza. Credo che il 1 giugno ci sarà la sentenza. Esatto. Voi ovviamente chiedete la soluzione, giudicate spropositati questi 7 anni. Allora, sulla base di cosa? Sulla base di cosa sono 7 anni la richiesta della pubblica accusa? In realtà le richieste dell'accusa, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, sono stati più mitidi rispetto a quello che ci aspettavamo, nel senso che comunque si parte da una tipologia di reato. Lasciamo fare il fatto che noi crediamo che si possa giungere a una sentenza di assoluzione, l'abbiamo motivato in discussione pochi giorni fa, però la violenza sessuale su un minore infraquattordicenne prevede una pena minima di 6 anni e qui c'erano contestati vari episodi, per cui il pubblico ministero è partito dal minimo della pena aumentando di un anno per la continuazione, quindi 7 anni rispetto all'entità delle pene previste nel nostro ordinamento è una pena più che minima. Non è che tantissimo, no, perché attenzione, appunto, l'accusa è questa, violenza sessuale. Io lo so che molti, perché è inutile, c'è questo retaggio culturale, sorridono, perché se fosse stata a parte invertite, cioè l'adulto un uomo e il minore di 14 anni una ragazzina, nessuno avrebbe avuto dubbi. E il fatto che sia il ragazzino sotto 14 anni e l'adulto una donna, secondo me, avvocato, gioca molto per dire da parte di alcuni: ah no, ma non è violenza sessuale. Questo me lo sono sentito dire tante volte in questi mesi, devo dire la verità. E chiaramente noi è un aspetto che non abbiamo in alcun modo analizzato, perché ovviamente noi andiamo a difendere una persona, quale che sia il suo sesso e quale che sia il sesso della vittima. Il nostro punto di vista, che penso sia il motivo per cui ci si sta sentendo stamani mattina, è stato un punto di vista un po' propositivo, cioè di adattare il diritto alla luce dei tempi che stanno cambiando. Mm-hmm. Senta, è stata una vicenda mediaticamente, vi ha travolto a un certo punto, almeno si riesce a portare avanti il processo un po' nella tranquillità, perché vi ricordate all'inizio tutti, Leonardo, volevano sapere chi è, cos'è, c'erano molti aspetti pruriginosi di tutta questa vicenda. Io ricordo quando la notizia è uscita fuori, io neppure conoscevo bene la vicenda, perché tutto è uscito fuori in una perquisizione di venerdì sera e io mi ero dato appuntamento a lunedì pomeriggio con loro in studio da me per parlare un pochino un attimo della vicenda, e sabato mattina è stato uno tsunami che si è battuto sulle nostre teste, mi ha chiamato chiunque in maniera del tutto inaspettata, perché devo dire la verità, noi ci eravamo salutati all'uscita della questura alle 8 di sera e tutto era tranquillo in quel momento lì, quindi effettivamente è stato uno tsunami mediatico amplificato dal fatto che comunque si parla non di una metropoli ma di una piccola cittadina dove un po' tutti si conoscono. Per cui la gente del posto sapeva perfettamente chi era, e tant'è che molti giornalisti sono andati a cercarla fuori da casa, fuori dai posti di lavoro, sia di lei che del marito, dai luoghi frequentati abitualmente. Sì, ma poi lei può immaginare, avvocato, voglio dire, una donna regolarmente sposata che ha un figlio con un ragazzino sotto i 14 anni cui dà ripetizione, si parlava, credo, anche di innamoramento, ci si chiede ma ci si può innamorare di un ragazzino sotto i 14 anni, insomma, ci sono tutti gli elementi per un feuilleton. Dovete sapere, i primi giorni accanto ai giornalisti io il mio telefono di studio squillava continuamente, si alternavano persone che mi offendevano a persone che volevano scrivere sia un libro che una biografia, perché purtroppo c'è anche questa cosa qui. E gli avvocati vengono associati ai clienti e si trovano a seguire. È un altro aspetto del nostro lavoro. Siccome lei la difendeva, voglio dire, tutti hanno diritto alla difesa, veniva considerato in qualche modo criminale. Io dico sempre una cosa, perché tanto una delle domande classiche che fa l'avvocato penalista è: ma come fai a difendere una persona colpevole che sa di essere colpevole? Chiaramente non è questo il caso, io sto parlando in termini generali. Sì, in generale. E la mia risposta è quella classica, ci diamo noi penalisti, cioè noi difendiamo, è vero, una persona, ma principalmente difendiamo dei diritti che sono giusti a prescindere dal cliente. Ci troviamo a seguire. Certo. Si è cercato di capire se l'insegnante ha fatto le pressioni anche psicologiche sul ragazzo? Credo che questo sia uno anche dei temi. Questo è uno dei capi di imputazione, ci sono contestati, noi chiaramente l'abbiamo contestati, però nel merito della vicenda, anche per rispetto alla controparte, vista l'età sensibile, preferisco non entrare. Certamente, quello che posso dire, ci siamo difesi lungamente, ho discusso più di 4 ore lunedì, quindi non è che siamo stati zitti in silenzio. Poi vedremo il 1° giugno. L'altra questione che si sono posti tutti sono i rapporti tra moglie e marito, cioè, perché se ho capito bene, avvocato, il marito sapeva, all'inizio diceva di no, ma non so se questo è stato ricostruito in fase processuale, cioè sapeva che questo figlio era allora, in realtà quello che posso dire è quello che anche loro hanno già detto ai giornalisti fuori, quindi per questo sono più che autorizzato a dirlo. Il marito ha sempre detto che a un certo punto ha saputo, gli è stato confessato dell'esistenza della relazione. E in quel momento lì c'è stato un riavvicinamento della coppia, lui non si è, da persona innamorata, ha voluto tutelare la famiglia, non si è voluto domandare se questo bambino fosse suo o dell'altra persona. Tant'è che avere un dubbio, ma non l'ha voluto. Posso dire una nota di dettaglio: quando ci siamo conosciuti, il primo contatto è stato un messaggio WhatsApp. A me mi ha colpito perché quest'uomo, come immagine profilo, ha i due bambini, quindi per dire proprio il totale riconoscimento della sua famiglia, la difesa della famiglia ha sempre avuto. Ma ecco, appunto, sulla questione del bambino, cioè, si capisce adesso, visto che è accertato, chi lo deve crescere questo bambino, chi lo dovrà crescere? Io dico, noi superiamo una famiglia e vuol continuare a essere famiglia. La paternità è vero che segue l'esame del DNA, ma segue anche tanti altri fattori. Questo è un bambino che ha imparato a chiamare babbo la persona con cui è cresciuta, certo, e lui lo chiama figlio, e così, e per lui così continua a essere, per cui noi faremo in modo di tutelare il più possibile questa famiglia, che al di là di quello che la gente può pensare da fuori è molto più sana rispetto a quello che si potrebbe pensare. Sì. Certamente ci sono stati dei problemi, ma la signora ha iniziato un percorso e questo percorso sta andando avanti con esiti positivi, spero. Allora, avvocato, vedremo se lei è d'accordo, ci sentiamo dopo la sentenza e vedremo che sentenza sarà il 1° giugno. Intanto la ringraziamo, avvocato Mattia Alfano. Caro Leonardo, qui, eccolo qua, Lorenzo è tornato all'attacco. Devi usare la levetta della pressione e portarla fino a 1.5 bar. Peraltro lo scrivono anche vari ascoltatori, devi ripristinare la pressione della caldaia tra 1 e 5 e 2 bar. Scusa, ce n'è un altro più specifico. Spegnere la caldaia, interruttore off, te lo dice così, attendere alcuni minuti, farla ripartire, così si resetta la centralina e va tutto a posto. Walter, tu per questo hai chiamato un tecnico, allora, che verrà ti resetterà la caldaia e ti farà pagare un 50, 60, non so, 70 non sono euro, questo, spero 100. Ieri l'ho resettata più volte, ma ogni volta poi tornava in blocco. Stamattina sì, ieri l'ho resettata più volte, ma dopo è andato in blocco. Invece stamattina l'ho rifatto e adesso funziona. Per ora funziona. Va bene. Attendiamo al tecnico. Mi dispiace che le persone abbiano questa idea di me, di uno completamente ai confini proprio dell'ignoranza realtà, completa e assoluta, sì, una persona che non riesce neanche a tenere in mano una forchetta per portare il cibo alla bocca, probabilmente hanno questa idea di me, gli ascoltatori. Ricordiamo uno che brucia il pentolino del latte, peraltro. Sì, ieri l'ho bruciato. È ancora bruciato, voglio vedere se lo potevo recuperare, ma niente. Mi hanno scritto andiamo che bisogna usare il bicarbonato sì? con l'aceto. Io ho provato, ma non nella caldaia. Avevo solo l'aceto balsamico, con l'aceto balsamico non ha funzionato bene. Anch'io ho solo l'aceto balsamico, l'aceto normale dovevo andare a comprarlo. Ma vabbè, dai, andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. La vera è chiaramente un problema di pressione. Basta che apri per un po' il rubinetto dell'acqua fredda in ingresso alla caldaia, controlli il manometro che sicuramente sì. ha la tua caldaia, lo porti più in alto, lo chiudi e risparmi 50 euro del tecnico. Vai, attenzione, Maniera, vai. Attenzione, è arrivato il tecnico, è vero questa notizia? Un momento, perché adesso cito qua, gli ho niente, aperto. Io adesso sto in silenzio, conduce Leonardo Manera. È arrivato il tecnico. Ti prego, avvisalo subito che è in diretta su Radio 24. Ti prego, sì. Sarebbe stupendo se ti chiedesse di fare fluoro. No, non mi riconoscerà. Guarda come si diverte. Togliti la parrucca, veramente. Che miseria. Vabbè, sentiamo Giancarlo da Rimini intanto. Giancarlo, sì. vai Giancarlo, c'è un momento di tensione. Pronto, vai Giancarlo. Buongiorno. Prego. Milan, volevo raccontarle, 30 anni fa io vendevo le automobili usate, avevo un piccolo saloncino e andai sotto usura 3 o 4 volte. Io pagavo il 10% al mese quando prendevo dei soldi in prestito, e quindi è il 120 all'anno in pratica, è facile fare, sì. mi sente qui, sì, fare sì, il conteggio. Sì. Ma il peggio non è questo, è che quando io andavo da una certa persona che adesso è morta, che era un concessionario, cosa mm-hmm. faceva? Dice, hai bisogno di 10 milioni, ma io non voglio interessi da te, però mi compri 4 macchine. Ti do i 10 milioni più mi prendo quelle 4 macchine là. Allora io, siccome quei 10 milioni per me erano vitali, ne firmavo 30 perché compravo le macchine, mi dava 10 milioni. Le 4 macchine erano 4 14. Non dico che le portavo alla demolizione. E poi avevo firmato per 30 milioni per averne 10. Era meglio pagare gli interessi su 10 milioni senza comprare. Ma come ne è uscito da questa situazione? Oppure quadri, perché questo dice, ho fatto un affare, ho 50 quadri, te ne do 10, sono quadri, erano, ovviamente il costo era solo quello della cornice, te le metteva 500.000 lire l'uno. Bene, certo. Sono uscito, intanto sono riuscito a vendere la casa che mi lasciò mio padre, non all'asta, l'ho venduta, mio papà, visto che io ero nei guai, ha detto, guarda, vendiamo la casa, io e tua mamma abbiamo parlato, ti leviamo dai guai. E così è stato. Accidenti, però è uscito pagando, insomma, pagato, è uscito con una casa, sì. questo è il dato di ma fatto. Le dico un'altra, così volante in 2 minuti ho subito delle cose. Allora dovevo pagare un assegno che avevo fatto fare a mia nipote, la figlia di mia sorella, da 3 milioni. Mm. Allora andai a comprare una Golf GTD che in quel momento si vendevano nel giro di un minuto a 5 milioni, ma valeva 6, l'avevo comprata bene. Andai a Rovigo da un commerciante che mi aveva già fatto di quelle operazioni che le ho detto. Dice, guarda, io ti do 3,5. Ma dico, vabbè, ho capito, vabbè, mi dia 3,5, ma non è niente questo. Uscì, tirò fuori dalle tasche 2 blocchetti di assegni. Era giovedì. Allora, No, 2 blocchetti. Io dico, come mai il signor Dal Detali mi tira fuori 2 blocchetti? Dice, perché in questo blocchetto, dice, ti do 3,5, però vai a incassare lunedì. Io avevo l'assegno dal notaio, mentre questo qui che lo puoi andare a incassare subito te ne do 3. Cioè, quindi dopo lo strozzo portare a 3,5 mi diede i 3, io accettai perché ero preso per il soldo. Giancarlo, è come avere un tumore, sta comunque la mia fortuna, Milan, sa qual è stata? Quella di non essere mai andato a prendere soldi dalla malavita. Giancarlo, grazie per questa testimonianza. Leonardo, cosa succede? È arrivato il tecnico della caldaia, gli ho spiegato il problema. ci hanno spiegato adesso... che forse sono i fumi. No, adesso senti che sta verificando. Ma lo vuoi intervistare? Cosa vuoi fare il pezzo? Ma t'ha riconosciuto? No. Senti come parla. Che sta verificando il problema. Mi scusi. Ma intervistano Radio 24. Mi chiedevano secondo lei qual è il problema, quale può essere. È la pompa. È un problema grave. È un problema costoso. Grave. Che grave. È un problema costoso. Che grave, sì. Sono 240 euro di pompa. 240 euro di pompa. Ma perché? Non so. Sì, scusate, ho capito, momento, lo so, dico, ma tu adesso riesci a fare il pezzo? Ti prego, questo è il pezzo. No, ma questo è il pezzo, vai avanti, ti prego. Avanti, ma prima questo inverno lo farà spesso la circolazione sufficiente. La circolazione, l'errore che manca acqua, ti fa il 109. E questo era 104 come 104, errore, non 109. 104. Circolazione. Ogni tanto la pompa non gira. Capito, magari è intasata. Però siamo nel progressivo d'inverno. Puoi trovare la casa fredda. Disastro. Che amarezza. 240 euro. Più la mano d'opera. Dai. È tratta un andiamo po'. Andiamo a 300 euro e non si può riparare, va sostituita completamente. Perché è rotto il girante dentro. Non ha una pompa così di altro tipo di recupero, anche scadente. No. Niente. Dice di sostituirla adesso, deve andare a prenderla casomai. Io ce l'ho già. E vabbè, proviamo a sostituirla. Chiudo l'acqua. Accidenti, bene, però, io chiuderei analisi. Qui perché oggi ho avuto una brutta notizia. Ci vediamo lunedì, dai. Deve sostituire la pompa. Scusate, sentiamo. Niente, no, vabbè, dai. Sentiamo. Come stai, Leonardo? Ciao. C'è la musichetta. Carmelo, ce l'hai la musichetta? Però ha fatto. No, non questa, no, la non musichetta questa, amara. Ma scusa, come è andata? 240 euro più la mano d'opera. Sì, niente, più ci IVA. Sentiamo lunedì. Ci sentiamo lunedì, dai. No, dai, ma no, non no, fare non così. È questa, no, ma non è questa, è quella amara. Devo sostituire la pompa. Sì. Bene, la pompa della caldaia. Però ha fatto un'analisi in un secondo, cioè è entrato. Ha detto che posso tirare avanti un po' d'estate, ma anche lui mi ha terrorizzato dicendo che poi il problema grosso sarebbe d'inverno quando non avrei più riscaldamento. Veramente, sta facendo terrorismo psicologico su di me. Non ti ha terrorizzato, ti ha detto di cambiarla. Conviene cambiarla, no. Vedi anche gli ascoltatori, conviene cambiarla. Sì. Come si chiama questo tecnico? Sì, non lo so, adesso chiedo il nome di battesimo. Posso chiederle il nome di battesimo? Cristiano. Okay. Allora, adesso qui c'è il dilemma. Cosa faccio? Tiro avanti con la pompa d'estate oppure la sostituisco in previsione dell'inverno? Lasciamoci così al giornale radio. Intanto voi al 349-238-6666 diteci esattamente cosa ne pensate. Leonardo dovrebbe tirare avanti resettando ogni tanto la pompa quando si blocca, oppure spendere questi 240 euro più manodopera più l'IVA, credo, non lo so, o 200, Leonardo, 240 euro è complessivo di IVA? Più IVA. La fattura, guarda che siamo in diretta su Radio 24, certo. Vogliamo vedere la fattura, se non pubblichi la fattura sui social, guarda che Cristiano, passate un brutto quarto d'ora, sai, abbiamo intervistato prima uno della Guardia di Finanza. Ti ricordo. Mi sento molto di buon umore per le mie disavventure, questo mi fa sempre piacere, devo dire. Devo dire che umanamente mi dispiace, però come trasmissione, come resa radiofonica non è male. Adesso però andiamo al giornale radio, voi scriveteci cosa deve fare Leonardo Manera. Ciao, sono Barbara da Nuoro, I love my radio. Ciao, sono Anna da Cremona, I love my radio. Ciao, sono Rosaria da Napoli, I love my radio. Gli italiani amano la radio. La partecipazione del pubblico ai programmi della radio è aumentata di oltre il 27%. Il tempo speso in ascolto digitale della radio è aumentato del 61%. Ed è l'amica sempre vicina a 37 milioni di persone. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani. Anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Il segnale orario vi è offerto da... Burro e formaggi Brazzale, i più elevati standard di verde e benessere animale. 1, nessuno, 100 Milan. Milan, sei proprio una carogna a ridere tanto delle disgrazie di Manera. Ehi Manera, cambia la caldaia, no la pompa, capito? Ci stanno anche i bonus. Ma la cambiasse la caldaia, 700 euro gli passa la paura, la tiene nuova. Leonardo, ti conviene sostituirla subito, perché altrimenti è già scritto che si romperà tra il 14 e il 15 di agosto. Vabbè, c'è scritto Leonardo, come va? No, scusa, ma io non ho riso, cioè non è che sono contento sborsare dei soldi. L'ascoltatrice aveva ragione. È la situazione. Ma sì, ma sono solidale. Se vuoi ti do anche una parte dei soldi. Vabbè. Secondo me mi sta rimettendo la mia che c'era prima e poi mi dice che è quella nuova. Sì, ho capito. Sto per essere truffato. Certo. Ho rimesso la punta di prima. È per solo che sono venuto con la mascherina, così non riconosco la faccia. Ecco, lo so, tanto io non capisco niente di pompa. C'è un grande spirito questo Cristiano, è venuto con la mascherina così fa la rapina. C'ha scritto anche Letizia Puccioni, nostra amica di 105, dice di cambiare tutto, però molti fanno notare come mai è arrivato già con la pompa, eh? È uno previdente, ma si vede che è una delle cose che si rompono più spesso. Sì, si vede, certo, che è una delle certo. cose che quindi ne avrà una serie di pompe di ricambio. Cristiano, chiedigli a Cristiano con quante pompe va in giro abitualmente. Adesso è al telefono, l'ha chiamato un altro cliente, immagino per la sostituzione di un'altra pompa. Secondo me è togliere quella che ha messo a te. Ma c'ha una pompa che fa girare per 5 minuti e poi dopo. Scusa, no, Leonardo, ma non rido per l'esborso, ma ci mancherebbe. Mi fa sorridere, cioè... Potete trovare una situazione più surreale, uno fa una scaletta e va a immaginare che nella diretta di uno dei suoi 100.000 ci possa essere un momento così alto, così magnifico, irripetibile. Adesso c'è tutta la caldaia aperta. La ventola non ce l'ha, dice, per esempio. No, ho capito, sì, per un'altra caldaia ci vorrebbe la ventola e non ce l'aveva, invece la pompa ce l'aveva già. Quanto costa la ventola? Fosse stata la ventola, per esempio. Adesso chiedo. Sì. È al telefono con un altro cliente, immagino, pure con la ditta. Adesso c'è la mia caldaia col mantello abbassato e così adesso credo che l'abbia già cambiata la pompa. Sentiamo Fabrizio della provincia di Imperia intanto, perché c'è grande amarezza. Fabrizio, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno Milan. Intanto il buon Manera se la faccia regalare la caldaia, così prevede il nuovo decreto, chieda al buon idraulico che gli porti una caldaia da 1000 euro e si erediti un credito di imposta di 1100. Certo. Quindi sì, la riparazione la paga, ma la sostituzione completa no, adesso insomma deve arrivare in gazzetta. Tornando a bomba, direi invece sull'intervento di Calabresi, sulla bagarre della Lega, di certo la questione non è stata se sia stato giusto o meno fare un ospedale, il punto è se siano stati spesi bene 2 miliardi di vecchie lire a posto letto, cioè lui questo, di questo si parlava, cioè con 21 milioni di euro fare 20 posti letto, per carità nessuno pensa male, però sicuramente la gestione è un posto, guardi, adesso io non lo so, i posti di letto di terapia intensiva costano molto, solo sui 100.000 euro, mi sono un pochino informato, solo sui 100.000 euro per la struttura e poi devi mettere il personale e le terapie, solo 100.000 euro tra letto, ventilatore, eccetera. Cioè è un, di terapia intensiva non è un posto qualunque, poi non lo so, non voglio addentrarmi perché 100.000 euro non è 1 milione certamente, però lei contesta il fatto che sia costato 1 milione a posto letto. Certo, costato, poi se sono donazioni private è un'altra cosa, non è del contribuente, però Fabrizio, lei giustamente fa notare, le suona un po' strano, un po' elevata questa cifra. Allora Leonardo, io vorrei andare per un attimo a Londra, tanto tu ormai lì la vicenda hai deciso di cambiare la pompa, questo abbiamo capito, non puoi tornare indietro. Sta procedendo così ormai in modo deciso, no perché gliel'avrei detto tu, è irreversibile comunque. È una di quelle scelte dalle quali non si può tornare indietro, è più impegnativa di un matrimonio, per dire. Dal matrimonio puoi recedere, ma dal cambiamento della pompa, una volta che hai stabilito di farlo, non puoi più tornare indietro. Zero. Allora io vorrei... Ha bloccato la pompa per sempre nella mia caldaia, che è lì, immobile. Nessuno la potrà togliere. Ma hai sentito quelli che ti dicevano che se tu cambi tutta la caldaia c'è il contributo adesso totale? Adesso chiedo, che se cambio tutta la caldaia ho il contributo totale del 110%. Del 110%. E quindi? E così dicono. Cioè io la posso cambiare e poi eventualmente vengo rimborsato da Conte. Del 110%. Però dice così dicono, poi bisogna dire. Ma sì, perché non è stata ancora fatta. Insomma, verrà, adesso è questione di giorni, dai, abbi fiducia. Solo che io ormai ho cambiato la pompa, non posso più tornare indietro. Una pompa è per sempre una volta che decidi di cambiarla, almeno la decisione. Vabbè, dai, torniamo per un attimo sulla questione dei concerti. Oggi poi chiudiamo la settimana, questa vicenda del concerto di Paul McCartney. Ragazzi, se volete vi faccio strimpello io due canzoni di Paul McCartney, scherzo, perché ha fatto arrabbiare molte persone. Allora c'è scritto Flora da Londra, ascoltatrice. Buongiorno Flora, eccoci qui. Buongiorno. Perché Flora ci ha scritto e ci ha spiegato bene in una mail come avvengono i rimborsi, per esempio nel Regno Unito. Come avvengono? Ci sono i voucher lì? Allora, la possibilità del voucher esiste, nel senso che io negli ultimi due mesi ho avuto dozzine, decine, ma forse di più, una cinquantina almeno di biglietti cancellati, anche perché qua noi compriamo tutto con grande anticipo. Dunque c'è la possibilità del voucher e quindi comunque di appunto sperare di poter andare a vedere un altro spettacolo in futuro, lasciando i propri soldi con la compagnia o col teatro o quello che è, o col promoter, come nel caso di Mimmo, sì, il promoter di Paul McCartney. E altrimenti chiedere un rimborso è sempre possibile, sì. Nessuno pensa di correre via col tuo denaro. Oppure una donazione al teatro, quindi insomma rendendosi conto appunto che è un periodo difficile, oppure anche un misto, e questa è la cosa che mi è piaciuta di più. Qui, per esempio, esatto, tu hai... cioè 50% di donazione, magari 50% di rimborso, che ne so. Esatto, così insomma se è un periodo tremendo per il teatro naturalmente, quindi se è un teatro che tu hai voglia di sostenere, lo sostieni, però non sei obbligato a sostenere. Beh, perché questo è il punto, mi sembra che qui ci sia una bella scelta, anche una collaborazione tra il consumatore e l'organizzatore, cioè non esiste l'idea del ti becchi il voucher e questo o nient'altro. No, assolutamente no. No, il rimborso è sempre una possibilità, sempre. Poi molti dicono, beh, se ci lasci i soldi, magari per un festival ci dà la possibilità di organizzare l'anno prossimo, certo. D'accordo. E anche la donazione, insomma, penso che anche molti la facciano, tra l'altro, perché tutti quelli con cui ho parlato di questa opzione donazione e rimborso, tutti fanno una piccola donazione, perché se te lo puoi permettere lo fai, insomma. Certo, io credo che tra l'altro se fosse impostata così, con un rapporto molto trasparente, magari uno è anche più invogliato a dire va bene, guarda, visto che mi dici o mi ridai indietro i soldi oppure mi chiedi di lasciarne una parte in donazione, io se posso farlo lo faccio. Nel momento in cui diventa un imperativo, allora le posizioni si irrigidiscono e a quel punto uno dice no, allora se vuoi tenerti i miei soldi, me li ridai tutti. Tra l'altro è un momento difficilissimo per la filiera, ovviamente, tutto cinema, spettacolo, musica, però è anche, un momento difficile per molte persone, quindi magari io non sono in grado di darti 100 sterline in questo momento, magari ho bisogno, che ne so, se sono freelance cerco di, no? Quindi non è soltanto la difficoltà del promoter di Paul McCartney, ma immagino anche la difficoltà reale economica di molte delle famiglie, delle persone che hanno comprato i biglietti a quel concerto. Sì, anche perché abbiamo scoperto che alcuni biglietti costavano 700 euro, per carità, cioè no, è un unicum, quindi a quel punto Tra l'altro, cioè, io non spenderei mai 700 euro per vedere Paul McCartney. Vabbè, e qui si entra nei gusti. No, vabbè, ieri parlavamo anche con la vostra redattrice, parlavamo della sì. possibilità di intervistarlo oggi alla radio, perché la prendevo in giro, le dicevo non online, come no, non viene anche lui in trasmissione con me. Quindi, però io non lo farei, però capisco benissimo lo Sun di Paul McCartney, spende 700 euro per un biglietto, e poi tu, Mimmo, scusi, non ricordo il cognome per cui... Sì, D'Alessandro, Mimmo D'Alessandro, Mimmo D'Alessandro, dice non te li ridò, o meglio ti do i voucher. Ti do i voucher per un concerto X, che poi non è neanche detto che ho un'altra data per Paul McCartney posticipata. No, magari No. Anzi, in teoria Paul McCartney avrebbe detto che non ritorna, poi magari si riuscirà. Ma e poi lui diceva che teoria, non è escluso che riesca a non è escluso, altro, sì. La musica di qualità, diceva Mimmo D'Alessandro, se ti piace la musica di qualità, sì, tu la sì. sostieni. Ma non sta a Mimmo D'Alessandro decidere che il povero Cristo, che aveva pagato 700 euro per un biglietto di polmone, adesso deve andare deve a vedere 80 concerti di musica di qualità. No, ma infatti la questione è questa. Comunque, Flora, grazie davvero per questa mail e questa testimonianza dal Regno Unito. Io qua non riesco più a staccarmi da questa vicenda melodrammatica della pompa. Vabbè, c'è chi ci dice una truffa in diretta radio, adesso no, della pompa di maniera, non esageriamo, c'è un lavoratore artigiano che sta sostituendo. Buondì, dite a Leonardo Manera che quando smonta la pompa controllino anche il tubo che porta l'acqua, perché potrebbe essere ostruito. Questo è successo a me. E c'è credo. Molto calcio nell'acqua di Roma, nel senso di elemento chimico, e magari sta lavorando ancora. Ma quanto ci vuole a sostituire adesso una pompa? Sta guardando la parte che va sopra verso i fumi di scarico, credo, giusto? Sta controllando il vaso di espansione, che è una cosa vabbè, che no. mi ha sta sempre facendo incuriosito. Un lavoro accurato, il vaso di espansione, sì. perché il vaso di Pandora e il vaso di espansione. Sì, ma il vabbè, vaso ma ragazzi, di espansione... ma sto Cristiano è un cabarettista nato. C'è il vaso di Pandora e il vaso di espansione. Potrebbero esserci problemi anche nel vaso di espansione? No, si controlla, si gonfia come le gomme della macchina. Ah, si controlla se è gonfio, cioè se... Perché tu, ma perché fai delle domande inutili a un lavoratore che sta lavorando? Insomma, perché una volta mi hanno detto che anche il vaso d'espansione poteva creare problemi e volevano cambiarmi anche il vaso di espansione. Senti. Questo è il rumore del controllo del vaso di espansione. Adesso tra poco ci sarà la diagnosi del vaso di espansione per vedere se si gonfia correttamente. Allora, e facciamo se quindi così. È abile a portare l'acqua in tutta la casa. Signori, dopo il traffico, in diretta il test sul vaso di espansione della caldaia di Leonardo Manera. Dopo il traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, attenzione, perché il momento è importante. Siamo a dare in diretta, in esclusiva, qui su Radio 24, il risultato del test sul vaso di espansione della caldaia di casa Leonardo Manera, dato da Cristiano, tecnico idraulico delle caldaie. Come va il vaso di espansione? Era vuoto. Era vuoto, e quindi cosa vuol dire? Cioè, quindi? Che? Vuol dire che? L'ho caricato. Ah, però funziona. Sì. Buono, era ottimo. Era vuoto. Però ha messo l'aria tutto a posto. Quindi no, vuol dire è che un non c'era che ammasso di calcare, immagino. Che vuol dire che non c'era calcare che si era ammassato sì. all'interno del vaso di espansione che poteva creare problemi. Esatto? No, non c'entra c'è niente. Solo aria. C'è solo acqua. Aria e acqua se funziona bene. Se invece funziona bene ci deve essere un bar di acqua. Un bar di acqua, di aria nel un vaso bar di espansione di acqua, e basta. Un bar di acqua. Va bene, ragazzi, vi stiamo facendo una lezione idraulica che è tutto a gratis. Ma tutto un bar a gratis. È inteso come bar di atmosfera, non pressione, bar, sì. bar Jimmy. Bar sì. Jimmy, sì, no. Sai, il bar Jimmy, adesso ti esce Jimmy dalla caldaia e scopriamo dal perché era bloccato tutto. Va bene ragazzi, rientriamo in noi, anche perché voglio parlare adesso di una storia che mi ha colpito. L'ho vista su Vanity Fair, ieri la riprendeva La Verità, so che c'è un libro in uscita. Saluto la signora Cinzia Messina. Buongiorno Cinzia e grazie di essere qui. Buongiorno a voi. Allora, Cinzia Messina è mamma di Greta, adolescente di, siamo a Ravenna, solo che Greta è nata Marco, e poi a una certa età, ci dica lei a quale età, ecco, io vorrei capire, è catalogabile come quella che viene definita disforia di genere il caso di Greta? Sì, è disforia di genere, è variante di genere. Per quanto riguarda Greta in età evolutiva, naturalmente, Greta fin dai 3 anni manifesta preferenze per tutto quello che è femminile, fino poi naturalmente all'età dello sviluppo, quando il suo corpo prende una direzione diversa da quello che lei si sente. Mm-hmm. Quindi a 3 anni era ancora Marco, ovviamente, ma manifesta, certo, il desiderio. Come lo si capisce questo desiderio? Magari non so, la richiesta, allora, di vestirsi da femmina? Per noi è molto più facile perché Greta ha un gemello, quindi è anche più facile capire, soprattutto coi vestiti, col colore, assolutamente ciuccio rosa, giochi, atteggiamenti, non ama i giochi violenti, poi nel tempo naturalmente anche i cartoni, determinate cose, Barbie, tutto, dallo zaino poi all'elementari rosa delle Winx. Mm-hmm. Cioè vuol dire una persona che non sente riconosciuta la propria identità sessuale con quello che prova all'interno. Identità di genere. Sì. Identità di genere. Quando una famiglia come voi si trova di fronte a questa situazione, come avete reagito in famiglia? Come avete accolto queste manifestazioni? Durante gli anni trascorsi naturalmente ci chiedevamo cosa fosse, poi qualche anno fa mi sono un attimo informata, oltre l'essere omosessuale, cosa ci potesse essere per il fatto di voler essere femmina, che cambiava le cose, perché io pensavo fosse omosessuale. Io ho guardato su Google e quindi avevo letto questo termine transgender. Poi è arrivato il suo coming out quando aveva 12 anni e di lì abbiamo preso in mano la situazione. Naturalmente con questa consapevolezza abbiamo cercato gli strumenti per renderla serena, per aiutarla. Tutto questo è diventata anche un'esperienza, credo che è stata tradotta in un libro e trasferita in questo libro che uscirà a giugno dal titolo Io sono io. Cosa significa? Perché questo titolo Io sono io? Perché cerchiamo di abbattere un attimo tutti gli stereotipi, tutto quello che gli altri si aspettano da una persona. Siamo tutte persone a prescindere dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere. Io sono io, punto. Poi naturalmente adesso mia figlia è binaria, no? Perché lei ha le idee chiare, lei è femmina. Poi ci sono anche le persone non binarie, quindi tutti cerchiamo di abbattere gli stereotipi, di accettare quello che una persona è, l'identità di una persona. Perché mi sembra di capire che la posizione che voi avete capito è quella sbagliata, è quella di cercare di contrapporsi o di opporsi o di addirittura dire questa è una malattia, va curata, questo non esiste, è un qualcosa. Non c'è niente di tutto questo in noi. Il libro è anche stato scritto proprio per riuscire magari a toccare qualche cuore che magari è da giudizio o quant'altro. Non ci ha neanche posto il problema, è sbagliato o non è sbagliato, il problema era la serenità di nostra figlia. Questo fin dall'inizio è stato così fin dall'inizio oppure è stato un processo anche per voi graduale? Ecco, assolutamente. Allora, per il papà naturalmente avrebbe accettato anche se Annika andasse vestita da femmina. Io ero un po' più ho fatto più fatica, anche perché mi facevo consigliare da una neuropsichiatra che naturalmente mi diceva di farla giocare in casa. poi ho proprio visto gli anni della sua vita. Cioè, giocare in casa cosa vuol dire? Cioè, escluderla? Da femmina giocare in casa, appunto. Fuori era un maschio. In casa poteva fare la femmina. Era un modo, come dire, un po' di nascondere esatto, la situazione. Esatto, quindi io naturalmente, inizialmente, non è che ero molto felice, perché non sapevo neanche cosa fosse. Quindi ero più... cercavo più di impedirglielo. Poi dopo naturalmente avevo un'infelicità veramente assoluta, non era fattibile la cosa, mi sono informata e un attimo proprio, è stato un attimo capire. L'ignoranza a volte crea veramente dei grossi problemi ai figli, alla società, e tutto. E le persone intorno? Cioè gli amici, i parenti, la società, la scuola? Allora, per quanto riguarda amici, parenti, tutto, sinceramente non mi sono mai posto il problema, perché chi accetta mia figlia bene, chi non l'accetta non è un nostro problema. Per quanto riguarda la scuola è stato un problema enorme, perché naturalmente è stata discriminata. Fatto sta che è felice adesso per la pandemia, che non deve mettersi alla prova quotidianamente con accidenti. I compagni che ignorano, i professori, i docenti totalmente impreparati ad accoglierla, no? Oltretutto ignorano anche il suo disagio, dicono addirittura che è lei che si isola. La dirigente ancora abbiamo chiesto un incontro da settembre, ancora non ci ha risposto, quindi finalmente finirà la terza media, speriamo bene e ci liberiamo di questa scuola. L'unica cosa che le è stata concessa, anche perché lei non sarebbe più andata a scuola, è stata chiamata Greta a scuola, che è una cosa molto importante. Come dire, è il primo passo, però mi sembra di capire, se lei dice è davvero felice che ci sia il coronavirus per cui non si deve presentare in classe, vuol dire che... È serena, vuol dire che... non è felice, è lo so. Però finirà questo momento, no? Ci sarà un momento in cui dovrà tornare. Beh, si dovrà anche rafforzare pure lei, eh? Se ne mettiamo tutto, ognuno comunque ha la propria vita, noi con tutto quello che possiamo le stiamo vicino, poi anche lei naturalmente la vita non è rose e fiori per nessuno, Certo. Uno dei problemi grossi è il senso di solitudine, quindi grandissima solitudine, ma proprio dalla scuola materna Greta vive, veramente. Ma dispiace, perché insomma spesso qua si dice, quando abbiamo parlato vari giorni fa del ragazzo di Torino che ha ucciso in un attimo di impeto il padre per difendere la madre, e abbiamo detto la scuola lo ha incluso, non l'ha mai escluso, qui ci sta raccontando invece una storia di una scuola che non include tantissimo, assolutamente. Questo mi dispiace, non c'è né informazione né formazione, proprio assolutamente non c'è per il momento. Io sono fiduciosa, non incolpo nessuno, però il fatto presente è questo, ecco. Quindi... Guardi signora, intanto grazie, poi questa storia, ripeto, è nel libro Io sono io, che uscirà però a giugno, credo, per la casa editrice Pontevecchio. Ho collaborato con me Francesca Mazzoni, Viola Mazzoni, sì, che sì, è attrice e scrittrice, ha scritto libri, è stata un'esperienza bellissima collaborare con lei. Ci sono immagini di una ragazza che ci ha visto in una trasmissione e in quei due minuti ha fatto dei disegni su Greta che ce li ha regalati, quindi dai, speriamo di fare una cosa gradevole e di portare un pochino di informazione. Un messaggio esatto, di informazione. Esatto. Grazie Cinzia Messina per essere stata qui con noi. Allora, dobbiamo andare in fretta alla borsa vi abbandono per qualche minuto, perché devo sistemare la questione economica, credo, con Cristiano, a meno che non voglia farmi un regalo. Sveliamo il tutto dopo la borsa. Mancherò per un po'. Dobbiamo scritturarlo, borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Cerchi un software per analizzare, simulare e pianificare? Vai su board.com. Uno, nessuno, 100 Milan. Somebody once told me the world is gonna roll me. Ma nera, te la cambio io la pompa della caldaia. Ne ho una che ho recuperato da un rottamaio. Te la metto io, te la monto, tutto in cambio di uno dei tuoi monologhi. La lobby delle pompe delle caldaie. Dica a maniera di lavarla con la Coca-Cola, la pompa. Ciao Manera, buongiorno. Comunque, con un tuo giorno lavorativo, la caldaia te la ricompri nuova, dai, visto quanto guadagni. Un saluto da Daniele da Firenze. Eccolo qua, ragazzi. Ora ci scrive Gino, dovremo fare una colletta per Leonardo. Come dire, ecco, ovviamente arrivava, era ovvio che dovesse arrivare l'uomo o la donna col ditino puntato a dire interviste come questa. Credo si riferisca alla mamma di Greta, nata Marco. Interviste come questa sono semplicemente vergognose, ignoranza, vittimismo e compiacenza, davvero il peggio. Va bene, ma qui si sa, passa sempre il peggio del peggio. Però mi chiedo come mai questo ascoltatore o ascoltatrice ascolti con gusto, non lo so, con disgusto evidentemente il peggio del peggio. Ci sono tante radio che si possono ascoltare. Allora, ma Leonardo c'è? Leonardo? Niente. Leonardo? Ma perché c'è un ascoltatore su Facebook che scrive ferma tutto, pagagli l'uscita e fai il preventivo della nuova caldaia. Niente, niente. Leonardo, niente, se n'è andato. Mi sa che... scusate se sorrido. Meno male che è arrivata una persona estremamente seria che non sorride mai. Anacleto, buongiorno Anacleto. Certo che questa della caldaia è Anacleto. Sì. Ma mamma mia, guarda, mi ero andato riuscito. Bene, mi preso un cosa allo stomaco, ho sentito parlare. Guarda, è una cosa incredibile. Poverino. È peggio di me col direttore della banca l'altro giorno, lui. Ma te ne rendi conto? Ma guarda, è tutto improvviso così. Mi ha scritto oggi dicendo deve arrivare il tecnico, spero che non arrivi durante la diretta. Io ho detto ma cacchio, ma speriamo che arrivi durante. Ma l'avessi detto, è arrivato. Stamattina ho sentito veramente la sua amarezza perché... Ma quel settantino te l'ha reso o no? Se no fai tutto un pari. Ci aveva dato 70 euro. No, era lui che diceva che io gli dovevo 70 euro, ma era una roba diventata finta poi. Sì, tu piuttosto sì. Hai pagato la multa che hai preso? Stai buono per l'amor di Dio. Ora stamattina arrivo alla banca dal direttore perché vedesse piono un po'. Allora, il direttore appena ti vede sgattaiola per le vie della chiesina. Per sentire, ti volevo dire che una cosa, dei cantanti, sì. No? Perché sì, Paul McCartney, sì. Rolling Stone, Vasco Rossi. Allora, io quando avevo il bar nel 63-64, a Chiesino Cianese, certo, venivano tutti lì, ero matto con una. Come si chiamava? Il bar Shanghai. E perché hai chiuso allora, se veniva tutti lì? No, ora c'è un ristorante sotto, eccetera, eccetera. Allora, veniva, veramente, verità Vangelo, da Fibbiala, Michele era così, la sua dicitura di partenza era così. Michele, reduce del Festival di Sanremo, Michele Ciampanti, di Fibbiala in piccapecore in CC che morì senza assaggiarla. Hai capito? E si presentava con la canzone del Festival di Sanremo con quel fritte che usava una volta, sai, con quella bombolina sotto che si faceva con la pompetta per levare le zanzare. A che tempi c'era quella lì, E lui si presentava e poi passava fra quelli lì, gli avventori del mio padre. Ma perché ci hai raccontato questa cosa? Aspetta però Anacleto, aspetta, perché molti scrivono Leonardo non risponde perché sta piangendo. Ma è tornato Leonardo? Aspetta. No, ma cosa ridi Anacleto? Senti, tu ce l'hai con me Leonardo, ma senti Anacleto, dice che gli hai svoltato la giornata questa storia Leonardo, della caldaia. Sono tutti cattivi con me, mi dispiace. No, io fra l'altro ora mi casca il telefono perché ti sento piangere, mi scivola il telefono di mano. Sicché Madonna buona, per davvero. Oggi è passato il top. Oggi veramente sei. No. Oggi il tecnico oltre il Mozambico. Ma poi questo Cristiano che così ti prendeva in giro anche. Com'è andata, Leonardo? Tutto a posto? Quanto hai pagato? 320 euro. No. 320. Sì, la pompa 300. Più la mano d'opera più l'IVA. Vedi pompa, che ti avevo detto anche l'IVA, porca miseria. 320 euro. Niente, dai, chiudo Anacleto. Qui, ci vediamo venerdì prossimo. Ma salto una settimana. Ma no, come venerdì prossimo? Senti, ma cosa rispondi all'ascoltatore che ha detto che tanto tu guadagni tanto, basta mezzogiorno? Non eri collegato in questo momento. No, come? Non ero collegato. Cosa vuoi dire? Cosa voglio dire? Che non sto lavorando in questo periodo con le mie serate, quindi purtroppo è andata così. Mamma mia, che amarezza. Mamma Accidenti, mia. Però effettivamente se cambiavi la caldaia c'è il 110% di rimborso. Dovresti ascoltare di più anche Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Allora ti spiegherò. Dovevi chiamare in diretta Mauro Meazza e passaggio a Cristiano. A quanto pare può essere una possibilità, però non si sa. Poi io sono un po' affezionato alla mia caldaia perché è l'unica che mi dà un po' di calore. La mia solitudine, la caldaia, la mia chafotò. La mia caldaia chafotò è l'unica che mi dà un po' di calore. In questo caso. Va bene. Si mangia l'insalatina con due pomodoracini. Si rimette per la sono preventivi che ti sconvolgano la giornata. Ha ragione su questo quanto ragione. Cioè uno si sveglia invece di bersi un bel caffè 320 euro, cioè, ragazzi. Diamo un colpo. Io non voglio mia ha ragione, sono vicino, ora vado dal direttore stamane. Vai dal direttore della banca, chiedigli un prestito di 500 sì. euro, così paghi la tua multa e la caldaia. No, la multa non la mando, la mando all'ufficio delle entrate. Vabbè, ho capito niente. Vabbè. Anacleto, ciao ragazzi, buona domenica a tutti, viva la chiesina. Buona domenica, viva la chiesina. Però Leonardo, mi dispiace, no, in realtà guarda, mi dispiace. Non è vero. Stai ridendo sotto i baffi dopo aver riso prima apertamente, prima in modo sguaiato, ho spiegato che ho riso e rido ancora, perché vedi che ridi anche tu, perché in onda non poteva capitare di meglio, sono molto cinico in questo, lo ammetto, cioè no, come resa radiofonica non poteva esserci comunque, di meglio, come chiudere la settimana con un tecnico della caldaia a casa Cristiano mi ha detto che era venuto anche a vedermi al teatro Chuck e anche è venuto a vederci al Manzoni, lo sai, mi ha e detto, non ti ha chiesto e quindi vedi che ti ha riconosciuto, perché hai detto di no? Sì, era venuto nel 2004 al Teatro Ciac e 2 anni fa al Teatro Manzoni a vedere lo spettacolo dove c'eri anche tu. Ecco, non ti ha fatto lo sconto per questo? Ma per niente, anzi, prezzo pieno, prezzo maggiorato. Ecco perché faceva anche il battutista, forse pensava così, c'è qui Manera, lo facciamo sorridere, no? Lui è abituato. Comunque, sì. Ascoltatore su Facebook... La detrazione al 110 non può essere applicata a una sostituzione di una caldaia, ma in un contesto di ristrutturazione che deve arrivare ad acquistare 2 classi di efficienza energetica assimilata al condominio. Quindi attenzione, cari ascoltatori, forse Leonardo hai fatto bene a cambiare la pompa, poi il vaso era a posto. Di espansione, dai. Sì. Non è andata malissimo, dai, non è andata malissimo. Andiamo al traffico, va. Uno, nessuno, 100 Milan. Sono il tecnico che sta riparando la caldaia di Manera. I love my radio. Beh, non male questo. Allora... È arrivato, credo, a tirarci un po' su di morale, a tirare subito su di morale. No, guarda, faccio un monologo oggi, guarda. Quello che avrei dovuto fare prima, non è amaro, anzi è anche simpatico, e anch'io mi tiro un po' su di morale rileggendolo. Bene. Quindi, tirati su di morale, base allegria. Allora, ormai si avvicina l'estate e a quanto pare in un modo o nell'altro potremo andare in vacanza. Ieri, aprendo un cassetto, ho trovato un po' di vecchie cartoline e mi è venuta nostalgia delle cartoline che arrivavano, soprattutto d'estate. Quando gli amici partivano dicevi mandami una cartolina e quando poi la cartolina arrivava c'era sempre un po' di emozione. Prima di tutto perché non sapevi mai che cartolina ti poteva capitare. Quando ero ragazzo e abitavo con i miei genitori, temevo sempre che gli amici mi mandassero quelle cartoline dove ci sono le ragazze nude sulla spiaggia, di schiena, che si abbassano il costume. Cioè, da un lato speravo che mi arrivassero proprio quelle cartoline, ma dall'altro ero imbarazzatissimo perché sapevo che prima di me le avrebbe viste mia madre e mi avrebbe detto: Leo, è arrivata per te una cartolina, con quello sguardo un po' severo che stava a significare tu e i tuoi amici siete proprio dei porcelloni depravati. Ieri ne ho trovata una di quel tipo nella mia scatola dei ricordi, saluti dal Gargano, con in primissimo piano due ragazze che appunto si stavano denudando e sulla cartolina il mio amico aveva scritto: ciao, noi qui ci stiamo divertendo, e tu? Come a far sottintendere che lui si stava intrattenendo con una o anche tutte e due quelle ragazze protagoniste della cartolina, cosa evidentemente non vera. Probabilmente si stava consumando in giornate noiose e ripetitive a prendere il sole senza far null'altro, ma voleva farmi credere attraverso la cartolina di essere in mezzo a un turbinio di sesso e di emozioni forti, e io, anche se sapevo che non era così, lo invidiavo. Prendevo la cartolina da mia madre, abbassando un po' gli occhi per la vergogna, e poi la mettevo nel cassetto della mia scrivania, conservandola gelosamente e immaginando che tutte le ragazze del Gargano fossero come quelle due che sulla cartolina erano ritratte. C'è chi sogna la California, io per anni ho sognato il Gargano, ma solo per quella cartolina. Poi ci sono le cartoline anonime, quelle col mare e basta, dove però ogni mare sembra meraviglioso. Anche se l'amico è andato in vacanza nel posto dove c'è il mare più limaccioso del mondo, riesci sempre a trovare una cartolina dove l'acqua sembra più trasparente e accogliente di quella dei Caraibi. E anche in questo caso l'amico che manda la cartolina tende a suscitare l'invidia di chi la riceve, scrivendo frasi del tipo: qui è meraviglioso, mi sto divertendo tantissimo. E io, che magari stavo a casa come un credulone, appunto credevo a tutto quello che vedevo e vedevo scritto, e immancabilmente mi immalinconivo. Insomma, di regola si spediscono cartoline per creare problemi e invidia a chi le riceve. Poi c'era la categoria cartoline romantiche, dove attraverso la cartolina si voleva far capire di essere interessati alla persona che la riceveva. Di solito cartoline che ritraevano paesaggi al tramonto, e in quelle cartoline si scrivevano frasi del tipo: qui è bellissimo, manchi solo tu, immaginando che poi al rientro sarebbe inevitabilmente scoccata la scintilla. Io ne ho spedite a decine di questo tipo, ne prendevo un pacchetto corposo e le spedivo indiscriminatamente a tutte le ragazze che mi piacevano, e loro, per ringraziarmi, quando andavano in vacanza mi spedivano cartoline normalissime, senza nessun riferimento sentimentale, cercando però di essere spiritose, con scritte del tipo: saluti salati. Io speravo nell'amore e loro mi scrivevano: saluti salati. Insomma, le cartoline sembrano... Insomma, le cartoline sembrano testimonianza di un altro mondo di tanti anni fa, un mondo più ingenuo. Adesso con gli smartphone tutto è cambiato, passa anche un'ambulanza, però un po' di quegli anni mi mancano, e sono sincero, la prossima estate, se potrò, andrò in vacanza anche solo per poter mandare qualche cartolina che ho scritto: saluti salati. No, non l'ho mai fatto. Non è finita, aspetta che almeno la ricella. Però gli applausi ci stavano, dai. Sì. Credo che nella vita sia comunque un'esperienza da provare, una di quelle che ti rendono consapevole di far parte del genere umano, un battito d'ali e di leggerezza dopo mesi di lockdown e di overdose di coronavirus. Quindi, saluti salati a tutti. È finita qui. Vabbè, c'è Dino da Genova, ce la facciamo, Dino? Dino? Pronto, buongiorno. Pronto. Vai. Mi sentite bene? Innanzitutto sì, complimenti. Per la vostra Radio 24, io mi sono sintonizzato lì e non ho mai più cambiato, perché è la stazione che mi interessa di più, ed è più varia e più interessante. Volevo soltanto dire che ho assistito naturalmente in televisione a quella rissa che c'è stata ieri in Parlamento per via di questo ospedale che dice che era giusto costruirlo, che non era giusto. Non è mai stata fatta una parola, se ben ricordo, su quella specie di cattedrale nel deserto che è all'isola della Maddalena. Io ogni tanto ho avuto modo di vederla, e credetemi che fa piangere il cuore vedere questa immane costruzione sul mare, e non si sa ancora se verrà e se è mai stata utilizzata. Io direi solo questo: non era giusto dire per 20 persone abbiamo aperto l'ospedale. Vuol dire che quell'ospedale innanzitutto ha salvato 20 vite, e poi a questo punto, se ci fosse stata una recrudescenza della, di questa brutta malattia, qualcuno avrebbe potuto dire doveva essere preparato un altro ospedale. No, ma infatti, ma qui il tema, insomma, è il tema che a volte un po' come la fai la sbagli, in politica si può essere sempre criticati. Comunque vedremo come va, Dino. Volevo, e la ringrazio, mi fa piacere che sia stato spazio anche per questo intervento prima di concludere. Cari ascoltatori, è andato in onda uno straordinario pezzo di vita amara di Leonardo Manera, in realtà solidarietà, non è bello iniziare il weekend sborsando 340 euro, poi tu cos'hai 340 euro così, in bancomat spero, no? Con fattura, no, paga tutto con regolare. L'assegno, si può pagare, sì sì, tutto regolare. Vuoi anche insinuare, cioè, vuoi anche mettere, roba, vuoi anche mettere questa ulteriore pulce. Una roba che non ho, sì, non ho in mano più da non so quanto tempo, gli assegni, ma a vuoto o cioè coperto? Ovviamente, assegno, tu sei cabriolet, tutti cabriolet. Ci troviamo lunedì, buon classico weekend. Classico assegno cabrio di Leonardo Manera, buon weekend. Ciao.